la strada sulla quale stiamo camminando è la stessa strada percorsa dai santi e dalle sante, che sono i nostri fratelli e nostre sorelle, i campioni dello spirito, gli eroi della fede, della speranza, della carità. Sono le persone più riuscite nella loro vita. Noi stiamo camminando sul sentiero che hanno percorso i santi e le sante. Qual è? Come si chiama il sentiero percorso dai santi? Non è esatto dire che hanno percorso il sentiero del dolore, della sofferenza, della mortificazione, del martirio. No. Il sentiero percorso dai santi è quello della gioia, della felicità. Una felicità, una gioia pagata ad alto prezzo, sì. Il prezzo della pazienza, della sopportazione, il prezzo della sofferenza, il prezzo della mortificazione, dell'austerità della vita, sì, ma prezzo, il prezzo che hanno sborsato i santi per essere nella gioia. Non si sborsano soldi per niente, non si buttano via i soldi, se uno sborsa dei soldi lo fa perché vuol comprare qualche cosa che reputa più prezioso dei suoi soldi. Gli preme rinunciare anche ai soldi pur di avere quella tal realtà, quella tal cosa. Ecco, il prezzo della gioia l'hanno sborsato i santi. E si chiama sacrificio, si chiama rinuncia, si chiama mortificazione, si chiama austerità, e può chiamarsi pazienza, può chiamarsi castità del corpo, purezza dell'anima, può chiamarsi obbedienza, può chiamarsi carità. E quanti nomi! Come noi abbiamo le monete, abbiamo le banconote da 1000, sì sì. I santi hanno sborsato volentieri qualunque prezzo per essere felici. Ma dei sacrifici ne facciamo, sì, sono monete che tiriamo fuori per comprare qualcosa che vale più del sacrificio. Ma andate al mercato, vi interessa un attrezzo? Siete disposti a vuotare anche il borsellino, a vuotare il portafoglio, pur di comprarlo quell'attrezzo, perché adesso vi interessa più l'attrezzo che i soldi. Supponete di trovarvi, a un rifugio di montagna e aver dato fondo a tutto il vostro tascapane. Non avete niente, però in tasca avete, 100.000 lire. Con quell'appetito che avete voi, che ha la moglie, che hanno i figli, dite, tiro fuori le 100.000 lire, qui ho bisogno di mangiare. Apprezzo più il mangiare che le 100.000 lire. Le tiro fuori volentieri, tanto di poter mettere le mani sopra un buon piatto, per me e per la mia famiglia. Significa che voi stimate in quel momento lì più quegli spaghetti che non i soldi. Infatti i soldi li sborsate volentieri pur di avere un bel piatto di pasta asciutta. Bicchiere di vino buono. I santi hanno sborsato il prezzo della gioia, sì, e fino al martirio. Credete che i martiri siano stati così coraggiosi e così generosi e così tanto per? No, per essere felici. Hanno sborsato anche il sangue per essere felici. Hanno considerato la vita presente come una moneta a confronto della vita futura. E l'hanno spesa volentieri questa moneta, anche se costava sangue. I martiri non sono morti per comperare la tristezza, la disperazione, per comperare la gioia, la letizia, il gaudio, la felicità. Mettiamoci ben d'accordo su questo punto qui. E quando Gesù Cristo, nostro Signore, parla nel Vangelo di portare la propria croce ogni giorno, di aver pazienza, di essere pronti anche a rinunciare ad una mano, ad un piede, ad un occhio, sono tutte similitudini pregnanti di significato, credete che volesse insegnarci a sborsare sacrifici per essere tristi? per essere imbronciati. No, tutt'altro, ci ha insegnato a sborsare qualunque prezzo pur di essere felici. E lui sborsa tutta la sua vita, perché noi fossimo felici, perdonati dei nostri peccati, riabilitati nell'amicizia con Dio, iscritti nelle anagrafi del paradiso. Ha sborsato lui il suo martirio, non l'ha sborsato per comperarci l'inferno, ma per comperarci il paradiso, la vita eterna.